professor. Strana dimanda, esservi che potria di non dovuto, e che ingrato negar io già potessi, e che abbraccio mortal non può esser dato, colpo si fortunato, che dell'ira del ciel tronchi il ministro. Sollecito men vado a preparare il sacrificio al lume, da cui scender può solo alla nostra salvezza il vero lume.